che m'attecca nel mio ben, su miei sospiri, volate le mio crudel, narrate voi lui, quanti di questo cuore si